Dai ragazzi, siete svegli? Noi siamo quelli della notte, il popolo della notte che sta sveglio. Ragazzi, io non lo so quando finiremo stasera. Chi rimarrà con me fino alla fine? Grazie della sincerità. Ok, allora parto subito, da così. Ok, ma son troppo felice, sono onorato, sono felicissimo di essere qui. Siete bellissimi, è veramente bello tutto quello che state facendo, tutto quello che stiamo facendo. E io penso che Dio ha preparato ancora qualcosa di importante stasera. Dio risponderà all'aspettativa del tuo cuore. Quindi se tu hai sonno, Lui ti parlerà in sogno. Non preoccuparti, Lui in qualsiasi modo ti parlerà. Quindi aspettati che Dio ha qualcosa per te. Dall'inizio che io ero agitato, ho un'agitazione addosso, ma mi sento bollire, è come se Dio dovesse finire, dovesse fare qualcosa. Infatti è stato bello, ho apprezzato tantissimo e credo che sia stato troppo brava Letizia, e quando lei ha parlato dello spazio, della parola che aveva ricevuto da Dio, io credo, ho visto proprio come se il cielo si squarciasse in due e lo Spirito Santo abbia iniziato ad operare. Sapete perché? Quando si parla di questo argomento, il diavolo non dorme. Non farti fregare, non dormire. Sapete perché il mondo va a rotoli? Perché ci sono tanti credenti o persone che si dicono credenti che dormono. Ok? Ci sono tante chiese morte e persone che stanno lì e ascoltano, beh, vediamo che cosa succederà. Succederà quello che tu deciderai che debba succedere nella tua vita, perché Dio non violenta mai nessuno. Quindi cosa ti aspetti stasera? Ti aspetti qualcosa di bello e di grande? Pregheremo per liberazione. Ok, voglio iniziare subito con un video. Io parlo ai giovani, alle giovani, sì? Che cercano essere da essere sessuali, sì. Da cercano avere un però, rapporto con quei giovani. È una cosa abominevole. Ma perché? Verso i signori. Perché voi altri vi mantenete a resistere, voi sì? Altri siete benedetti dall'Eterno. A resistere il fino a quando? Il sessualismo è una cosa cattiva, è un peccato. Ma siamo ancora lì? Cos'è il sessualismo? Il peccato lo portate fino al matrimonio, dopo il matrimonio c'è stata sempre la guerra. La guerra? Ma ci sono divorzi perché non ci stiamo attenti da essere sessuali. Cioè non neanche ci dopo il matrimonio? Ha mangiato pesante, è un po' confuso oggi, eh? Bisogna essere fermi. Non bisogna essere adultero o sessualismo. Adultero. Cos'è il suo sessualismo? Non devi essere sessualismo. È turco anche lui, credo. Non sono da Dio. Lo insegnano delle scuole, perché nelle scuole fanno vedere che hanno la religione, e invece non è religione. E il sessualismo è una cosa peccato. Ma è una cosa abominevole. Il sessualismo è una cosa peccato. Ok, il sessualismo, sono qui per dirvi che il sessualismo è una cosa peccato, perché ci hanno presentato il sesso sempre in questo modo. Il sesso è brutto, non si può dire sesso, ok? Se dici sesso è peccato. Di sesso? Qualcuno non lo sa dire, vedi? Vedi? Qualcuno non lo sa dire. Dite sesso? Allora, ci sono persone che lo dicono sesso, sesso, non... sesso, ok? Chi ha creato il sesso? Dio. Quindi è una cosa buona o una cosa cattiva? Pensate che Adamo ed Eva, secondo me, appena si sono conosciuti, piacere, Adamo. Eva. Secondo me si sono nascoste dietro un albero. Non c'era niente. E solo gli alberi c'erano, non è perché. Perché probabilmente si sono conosciuti biblicamente, non avevano neanche la fogliolina. Non c'era niente, erano così come Dio li aveva creati. Ma ormai i mass media ci stanno dando un'idea sbagliata di quello che è il sesso o che è l'amore. Trovo persone vergini soltanto nell'oroscopo, perché poi in giro è davvero complicato trovarle, ok? Addirittura anche in chiesa ormai non si chiede neanche più... Perché sei vergine? No, non guardo più l'oroscopo, ho smesso, ho finito. Perché? Perché la verginità non crea profitto. La verità è questa, la verginità non crea profitto. Attorno al sesso che cosa gira? Prostituzione, aborto, mercato pornografico. Il sesso, non visto come lo vede Dio, porta soldi, quindi non puoi rimanere vergine, perché vergine significa rimanere poveri. Io non voglio rimanere povero. Ho letto in un libro che parla delle dipendenze di questo secolo questa frase, che dice: la potenza maggiore nel mondo fisico non è la bomba nucleare, ma il sesso. La dipendenza dall'alcol e dalla cocaina può essere un grosso problema nella nostra epoca, ma impallidisce al confronto con i danni causati dall'immoralità sessuale. Ecco quello che sta succedendo oggi. Oggi lì, dove state voi. E voglio velocemente farvi vedere alcune statistiche del 2014, statistiche di Pornhub, che è il maggiore produttore e distributore di web sul web. Guardate, quello è l'utilizzo di computer, cellulare e tablet in percentuale, sono le persone che utilizzano questi dispositivi per guardare filmati porno o immagini porno. Nel mondo il 45% usa il cellulare, il primo anno in cui i dispositivi mobili hanno superato il computer. Significa che c'è il porno mobile ora, non serve più stare seduti al computer, anche in movimento puoi fare uso di porno. In Italia siamo ancora pigroni, quindi preferiscono il computer, il 52% ancora usa il computer per fare uso di porno. Altra slide. L'Italia è al settimo posto nel mondo come traffico di pornografia, ma al primo come per quanto riguarda il tempo di permanenza. Probabilmente è causa della disoccupazione, non c'è niente da fare, si guardano i porno. Questa è l'unica spiegazione che mi sono dato. 10 minuti e 43, probabilmente sono 10 ore, non lo so, dipende dalla regione. Andiamo avanti. La categoria più ricercata nel 2014 è stata adolescente. Mentre i termini ricercati sono stati lesbica seduce ragazzo etero, transessuale fa sesso con ragazza, è interessante. Questi sono stati i termini, non sono eccezioni, sono i termini più ricercati. Ok, andiamo avanti, non so quante ce ne sono però. Poi si lamentano perché aumentano gli stupri e le violenze. Dati BBC, quest'anno sono aumentati del 29%. Avanti. 78,9 miliardi di video visti in tutto il mondo nel 2014, 37,8 milioni di like, quindi guardate quante persone, di 11 visualizzazioni per ogni persona sulla terra di materiale porno. Parliamo di una media di 5.800 visite al secondo. In questo momento 11.006, no, 3 secondi di più. 5.800 al secondo, oltre 1 milione di commenti nel 2014, e la parola più usata è amore. La parola più usata nel porno è amore. E ogni giorno vanno online 260 nuovi siti pornografici. Vi rendete conto? Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Questa è la realtà che la Chiesa dovrebbe combattere. La Chiesa. Grazie. Ti voglio bene. Guardate, da qua, soddispari, da qua, questa fila, alzatevi. Sono italiani? Ok. Stand up. questi sono io, oh, dall'Inghilterra sono venuti questi. Ok, grazie, grazie davvero, ci avete onorato. Allora, guardate, il 47% dei cristiani affermano e dichiarano che la pornografia è il principale problema che loro si trovano a combattere nelle loro case. Il 47% delle persone che vanno in chiesa, la metà, loro hanno problemi, non voi. Ok, nessuno ha detto di no però, quindi ok, accomodatevi, accomodatevi pure. Questo che cosa significa? Che viviamo in una cultura pornificata. Cioè, questa cultura è totalmente pornificata. Se pensi, se solitamente lanci degli sguardi libidinosi a delle donne, okay? non lo so come lo lanci, non preoccuparti, non sei solo. Ti voglio consolare. Il 97% degli uomini lo fa. Il 97%. No, non lo so, noi siamo il 3%. Sicuramente, però il 97% degli uomini spesso fa questo. Perché? Perché è la carne che spinge anche a fare questo, poi lo vedremo e lo tratteremo meglio. Avete pensato alla Adamo ed Eva? Fogliolina, alberi. E avete mai pensato alla reazione di alla prima reazione di Adamo ed Eva quando hanno peccato? Che cosa hanno fatto? Leggiamolo. I loro occhi si aprirono, pure ad occhi chiusi lo facevano. Guarda. I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi. Cioè, che santità. È incredibile. Non lo so come si fa, però... I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi, perciò intrecciarono foglie di fico attorno ai fianchi. Da quel momento gli uomini divennero ossessionati dal corpo delle donne. E da dove sei uscita? E tutto questo tempo dove eri? Guarda che l'albero magari... Cioè, ma cos'è che sta succedendo? E questa ossessione, l'ossessione dell'uomo verso il corpo delle donne, dimostra la ribellione dell'uomo verso Dio. Quindi questo, oh mamma mia, non riesco a non guardare, questa tendenza dimostra la ribellione dell'uomo. Perché la prima cosa che successe è si accorsero che erano nudi. Ma guardate che cosa succede più avanti. Allora Dio, il Signore, fece per l'uomo e per la donna delle tuniche e li vestì. Dio li vestì. Gli ha detto, prima che fanno danni. Ok, prima che fanno danni, che fanno perizomi, cose così, con le foglie di fico, li vesto io, ok? E questo mi dimostra che Dio è preoccupato a come ci vestiamo. Siete d'accordo? Dio è preoccupato, è Dio che li ha vestiti. Ha detto, qua questi faranno sicuramente dei danni, perché arrivi a un certo punto nella tua vita, prima era il liceo, ora le medie, anzi forse le elementari, vabbè, come stanno andando le cose all'asilo, tu arrivi a un certo punto nella tua età che ti guardi allo specchio e capisci che hai un corpo, perché prima non l'hai capito. Prima guardavi altro, e si innesca questo negli adolescenti o in tante persone. Ho il corpo, dallo e piacerai. Ho il corpo e userò il mio corpo. E tante ragazze iniziano ad andare di corpo ad una certa età. E quando una ragazza non riesce ad attrarre con quello che ha dentro, va di corpo. È proprio, è automatico, no, non riesco a farmi accettare per quello che ho dentro, quindi mi faccio vedere. Alcune donne hanno preso alla lettera il versetto di Gesù. Vi farò pescatrici di uomini. E lo fanno realmente. Cioè, è incredibile. Poi... Avete mai visto quelle scene nei film dove si trasportano lingotti d'oro? No? Dov'è che vengono messi i lingotti d'oro? Nella borsa? Scusatemi, con cosa vengono trasportati da una parte all'altra? Portavalori? Un borsone? Con quale mezzo? Col treno. Ok. Ok. Ok. Sì. Sì. Nel film West. Scusami. Scusa, hai ragione. Hai ragione, ok. Ho sbagliato io. Nel 2014. Qui. Che cosa viene usato? Viene usato un cavallo, no? Nel 2014 ci siamo evoluti. Usano una Ferrari? Ok? Usano un furgone blindato, ok? Usano il furgone blindato, perché? Perché è qualcosa di prezioso, è qualcosa di prezioso. La tua santità, la tua purezza, single, fidanzato o sposato, è qualcosa di prezioso e la devi custodire in un furgone blindato. Da oggi ti chiamerai furgone blindato, ok? Piacere, furgone blindato, ti fidanzierai sicuro. Cioè, proprio, immagina, non puoi trasportare... Poi i lingotti arriveranno comunque, se io li trasporto con una Ferrari, arriveranno? Più su. Cioè, scusa. A mano. Ok. No, solitamente uso la macchina. Ok, così, va bene. Perdonatemi, che prima facevo il rapper, allora... Allora uso il microfono così. Con la Ferrari arriverebbero comunque, ma aumenterebbe il rischio di perdere la propria verginità. Poi se mentre sei con la Ferrari ascolti Gigi D'Alessio, secondo me tu lì perdi tutto. Perdi tutto, tutto. Perdi la verginità anche da solo in quel momento. Cioè proprio, c'è differenza tra essere belle e essere sexy. C'è molta differenza. Che cosa significa essere sexy? Non è peccato, dillo. Essere sexy è provocare, ok? E ispirare sesso. Quando tu guardi una persona, quanto sei sexy, gli stai dicendo, io farei sesso con te in questo momento. Quindi dillo solo a tua moglie. Spero che tu non debba dire questo per avere relazione, comunque... Perché se no devi fare dei corsi matrimoniali per aiutarti in questo. Poi alcune ragazze, io non le capisco, perché alcune ragazze non capisco se, se quella è la cinta o è la gonna o si è ristretta, oppure hanno fatto shopping alla prenatal. Quando hanno comprato qualcosa. Veramente, io non riesco a capire alcune cose. Oppure io... Non lo so, forse la mamma può sbagliare a fare la lavatrice, no? Quando c'è le magliette sopra l'ombelico. Ok, probabilmente la mamma ha sbagliato a fare la lavatrice. Il problema è quando ce li hanno anche i ragazzi. Sopra l'ombelico, perché poi trovi i ragazzi hanno il problema della nanetta, no? Allora, non... usate le maglie lunghe. Per favore, ne va. Non sto dicendo che dovete... No, aspetta, non fraintendetemi. Non dovete vestirvi come un sacco di patate. Ok? Col saio... No, non sto dicendo questo. Quello che... La modestia non è farsi brutta. Ok? No, siate modeste. No, la Bibbia dice dovete essere... La modestia non è farsi brutte. La modestia è prendere la bellezza della femminilità e usarla per esprimere dignità. Voi dovete esprimere dignità nel modo in cui vi vestite. Non dovete ispirare sesso, ok? Dovete ispirare Dio con la vostra vita e nel modo in cui voi vi vestite. Amo quelle foto su Facebook di... Io li chiamo gli uomini tartarughe ninja. Preferibilmente col bidet dietro, perché fa pandan. Dio è la mia forza. Oppure le ragazze. Le opere di Dio sono meravigliose. Ragazzi, non sto scherzando, li ho viste. Io ho detto no, non è possibile che ci sia così tanto bisogno dell'inferno, di amore per queste persone. Non è possibile. Poi alcuni uomini, noi uomini siamo visivi, quindi voi ci dovete aiutare. Non dovete fare occhi di gatto. Anche alcune donne si vestono e sembrano occhi di gatto, ok? Aiutateci, perché ai ragazzi piacciono i gatti. Quindi cercate di aiutarci anche visivamente. Molti uomini, ora sto cercando di raggruppare il genere maschile, alcuni uomini guardano le donne come se fosse un buffet di dolci. Chissà com'è sto bombolone alla Nutella, oh! Anche nelle chiese a volte, probabilmente tu non hai il problema della pornografia, ma quando entra una sorella, è nuova. Perché siamo così, ok? È unta quella ragazza, proprio senti un qualcosa di spirituale che si sta... Poi è vero anche che ci sono quelli lì che rendono sessuale qualsiasi cosa che cammina. Tu puoi essere coperta fino alle caviglie e hanno problemi di zuccheri questi ragazzi qui. Guardate cosa dice la Bibbia. Nel principio Dio... Questo è facile, eh? Il Dio creò anche gli alberi. Nel principio il Dio creò. Quando guardiamo il sesso opposto, noi stiamo guardando una parte della creazione di Dio. In che modo la stai guardando? La stai denigrando? La stai prendendo in giro? In che modo la stai desiderando? Questo mi ha spaventato e mi ha anche intimidito, perché significa che quando tu hai pensieri, o tutte le volte che ho avuto pensieri impuri nella mia mente, hai avuto pensieri impuri? Sì, ho avuto anche problemi di pornografia da adolescente. E vuol dire che io ho desiderato in maniera sbagliata una parte della creazione di Dio. E quando tu stai desiderando una donna che ha accettato Gesù dentro di lei, significa che lo Spirito Santo è entrato nel suo corpo e il suo corpo è diventato il tempio di Dio. Quindi significa che tu stai commettendo adulterio con il tempio di Dio, guardando la sorella nuova. Vabbè, se è proprio nuova dipende. O creazione o tempio, guardando una persona in questo modo, tu stai commettendo. E sapete che cosa vuole fare il diavolo? Il diavolo vuole farci desiderare tutto ciò che appartiene a Dio e rovinarlo. È per questo che guardiamo alcune cose in questo modo. Ma la parte bella è questa, che Dio ha creato la donna e l'uomo a propria immagine e a propria somiglianza. E io ogni notte dormo con un'immagine di Dio a fianco a me. Non è meraviglioso questo? Questa è la parte meravigliosa. Significa custodire quello che Dio ti sta regalando. Se voi ragazze non rispettate il vostro corpo, perché dovrebbero farlo i ragazzi? Siete voi che dovete farlo per primo. È per questo che mi piace il velo nel matrimonio, perché è qualcosa che copre, che vela, che viene alzato, perché il velo custodisce, protegge qualcosa di prezioso. E tutto quello che stiamo vivendo, da cosa è alterato? In che cosa usa il diavolo? Ok, sono due punti di cui parlerò stasera, è pornografia e masturbazione. E poi vi darò dei piccoli consigli e pregheremo insieme. Va bene? Siete d'accordo? Ok, anche se non lo foste, lo devo fare. No, grazie che siete d'accordo. Pornografia. Io voglio sfatare un mito. La pornografia non è un modo sexy di scrivere. Questa ci vuole un po', quindi devo aspettare. Qua è arrivata ora. Siamo stati ingannati. Noi uomini siamo stati ingannati sull'essere uomini, perché per tanto tempo non ci sono stati degli esempi. Non parlo di tutti, sono mancati gli esempi uomini, ok? Probabilmente padri che hanno aiutato a capire determinate cose. Questo vi ripeto, non per tutti. Siamo stati ingannati dai media. Ormai si vede, sono diventati tutti daltonici con tutte queste sfumature, cioè non si capisce più niente. Ormai i colori sono cambiati. È un casino, veramente. È qualcosa di assurdo. Ti dicono: se vuoi essere un uomo, vai e prendi quella donna. No, non sei un uomo se violi quella donna, ma sei un uomo se la rispetti anche con i tuoi occhi. Che cosa sta facendo la pornografia? Sta confondendo l'amore e il sesso. Alcuni scambiano l'amore per il sesso. Perché che cosa fa la pornografia? Ti prepara all'infedeltà nel tuo matrimonio. Allora, ragazzi, quando usiamo pornografia, facciamo pena alle ragazze, perché è brutto. Immagina quel momento. Capito? È qualcosa di brutto, di imbarazzante. Per un ragazzo usare pornografia è il modo migliore per uccidere il suo matrimonio. Cioè, vuoi uccidere il tuo matrimonio? Usa pornografia. È assicurato che tu distruggerai il tuo matrimonio. Perché che cosa fa la pornografia? Ti abitua a donne sempre disponibili. Sempre disponibili. Amore, ma c'è Moment Act. Usa Moment Act. Ma amore, ma nei film non era così. Cioè, ti ricordi? Quelle subito saltavano dal soffitto, facevano quelle cose. Ma come mai non succede questo nel matrimonio? Amore, non puoi avere mal di testa. Amore, non era così nel film. Cioè, ogni giorno, sempre, mattina, pomeriggio, sera, e la pornografia inizia a rovinarti tutto quello che hai nella testa, tutto quanto. No, smetterò quando mi sposerò. Non c'è cosa più sbagliata, perché trasferisci le tue fantasie erotiche su tua moglie, che è un'immagine di Cristo che lui ti ha concesso. E sapete, voglio fermarmi un attimo, perché Dio mi ha regalato una donna meravigliosa, però è stato anche frutto dei miei suoceri che sono seduti lì. Potete alzarvi, Rosaria, Antonio? Loro hanno creato mia moglie. E io ho tre suoceri, anzi cinque, loro due, e poi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché lui mi ha dato sua figlia. Perché mia moglie è una sua figlia e bisogna fare molta attenzione a come tratto sua figlia. Non posso essere infedele. La fedeltà è qualcosa che si costruisce. Come? Non facendo uso di pornografia, è una delle prime cose. Quando tu, fatti una domanda, vale la pena aspettare per vedere il corpo di tua moglie? E se non sai di dire no al sesso e alla pornografia, quanto vale il tuo sì quel giorno sull'altare? Fatti una domanda, è facile dire sull'altare: lo vuoi? Sì, lo voglio. Ma prima devi vedere quanto vale il tuo no. È il tuo no che dà valore al tuo sì lì, quel momento sull'altare. Ma immagina, il giorno vi siete sposati, prima notte di nozze. Amore, Guarda, non sapevo che cosa fare. Non so come dirtelo. Sono andato su alcuni siti per vedere un po'. Amore, che siti sono? No, tranquillo. Maciolatino.com e l'uomolupo.it. Ma tranquilla, era solo per capire, perché io certe cose non le ho mai fatte. Immagina se tua moglie la prima notte di nozze ti dice così. Tu inizi ad ululare, come minimo, in spagnolo, così fai l'uomo lupo latino. È assurdo, ma vi spiego. Allora, pornografia, ma che cos'è esattamente il porno? O che cos'è porno? Quanti di voi hanno, non lo so, ci provo, io li amo, vedono, hanno visto Friends? Ok, per i nostri amici italiani, Friends. Ok, è un telefilm meraviglioso di cui io mi sono innamorato, Monica e Chandler. Loro sono dei personaggi incredibili. Una volta Monica ha scoperto Chandler che guardava il porno squalo. Vi spiego. Chandler era andato via per lavoro e alla fine della sua giornata lavorativa si è fermato in un albergo per riposare. Monica ha deciso di fargli una sorpresa. Che bello, mio marito lavora, voglio fargli una sorpresa, andare in questo albergo, trovarlo e stare insieme. Che cosa è successo in quel momento? In quel momento, appena Monica ha aperto la porta dell'albergo, ha trovato Chandler con il braccio nei pantaloni in quel momento e lui ha fatto in tempo, perché ha sentito il rumore della porta, ha fatto in tempo a cambiare canale subito e ha messo, è capitato su un documentario di squali. Solo che ha fatto in tempo a cambiare il canale, ma non ha fatto con l'altra mano, insomma, avete capito, no? Era rimasto bloccato in quel momento, gli stava grattando la coscia e non riusciva ad estrarre la mano. E Monica ha guardato la situazione. Ha detto, ma scusami Chandler, ti stai masturbando con un porno squalo? Questo per dirvi, questo non è per dirvi che dovete guardare Friends oppure che Super Quark è eccitante, non sto parlando questo. È per farvi comprendere che cos'è realmente porno. Porno, perché molti non comprendono che cos'è realmente porno. Cioè, allora abbiamo porno hardcore, porno softcore, porno razziali, il porno gay, il porno oversize, il cibo porno. Ci sono più categorie di porno che puntate di Beautiful. Cioè, trovate tipologie di porno ovunque. Ma, pastore, domande che mi fanno, questo è porno? Ma perché? Che ti sembro? Cioè, no, perché tu puoi aiutarmi. Ah, ok, pensavo... Ok, questo è porno, allora se non è porno posso guardarlo? Perché ognuno di noi ha delle idee, non voglio etichettare le cose, ok? Non sto dicendo, però noi siamo abituati a etichettare, questo è porno, questo non è porno, quindi se questo non è porno, allora non è peccato, allora posso guardarlo. Ecco la definizione, una delle mie definizioni di porno. Porno è tutto quello che usi, guardi, leggi, ascolti o immagini che viene utilizzato in maniera illecita per l'eccitazione sessuale al di fuori del proprio coniuge. Questo è porno. Che cosa significa? In altre parole, è che tutti quei programmi che alcuni programmi TV possono essere porno anche se sono su dei canali classici. I libri possono essere porno anche se sono chiamati romanzo d'amore. Le riviste possono essere porno anche se non si chiamano Playboy. I social media possono servire come porno per molti e la nostra immaginazione può essere anche... Come ti chiami? Bravo. La nostra immaginazione può essere anche, non ti sto dicendo che ora devi uscire, ti devi pulire da tutte le influenze del mondo, ok? Oppure che devi cancellare la tua pagina Facebook, anche se a molti farebbe bene. Non sto dicendo questo, ok? No, assolutamente, però vorrei che ci facessimo la giusta domanda. Non è che cos'è la pornografia, ma che cos'è porno per me? Che cos'è porno per me? Ci sono delle scene, a volte in dei film, ci sono delle scene sexy. Io potrei guardare un film e potrei anche non essere eccitato guardando quelle scene sexy. Ma io che cosa faccio? Distolgo lo sguardo ed evito di guardarle. È una scelta, non è una necessità. Perché probabilmente quella scena non ti eccita, ok? O non è porno per te. Io ho scelto di non guardare, perché? Perché si immagazzina tutto nella testa. La nostra mente è l'organo sessuale più potente. Che scoperta. Mi dispiace. È l'organo sessuale più potente della nostra mente, quindi si immagazzina tutto quanto. E quando la prossima volta che ti imbatti in questo tipo di situazioni che mobilitano le tue parti inferiori, chiediti questo, ok? Questo è porno per me. Esamina il tuo cuore, esamina la tua mente. Sii onesto con te stesso, io non posso darti le regoline, sii onesto con te stesso e cerca, se la risposta è sì, allora spegni tutto. O guarda Super Quark, i documentari sugli squali o su qualche altra cosa. Ho sentito la storia di un ragazzo mi ha raccontato una storia dicendomi, un giorno mio papà ha deciso di portarmi con lui a fare una passeggiata da uomini. E ha detto, vieni con me, siamo stati tutta una giornata insieme, siamo usciti col fuoristrada, siamo andati in montagna, e ha iniziato a parlarmi di tutte quelle cose che io dovevo e non dovevo fare. Praticamente mi ha detto che non dovevo fare uso di pornografia e che non dovevo masturbarmi. Ah, dai, che bello. Sì, appena sono arrivato a casa ho fatto entrambi. Perché era la prima volta che il padre gli diceva, no, non devi fare. Masturbazione. È veramente... Allora, che cos'è la masturbazione? O meglio, un'altra domanda. Quelle che mi facevo io. È vero che la masturbazione mi aiuta a rimanere puro? Che bello. È una delle prime domande che ho fatto in un campeggio cristiano. Sì. Non chi era Gesù. Ho detto, è vero che la masturbazione mi aiuta? E per tanto tempo ho oscillato tra due parti. Uno è credere che la masturbazione sia innegabilmente sbagliata. Perché? Perché è legata alla pornografia, perché c'è un senso di colpa che ti schiaccia. No! Perché? Ancora, però tanto poi il giorno dopo lo rifai comunque. E poi c'era l'altro lato della medaglia. Ho creduto che ci si poteva masturbare senza fare uso di pornografia. E in questo modo, ok, non avevo sensi di colpa e quello mi avrebbe aiutato a rimanere puro. Perché in un campeggio cristiano mi hanno consigliato questo. Sì. E ho detto, no, ma tanto, tu basta che non pensi a niente. Da quanto tempo fai responsabile? Mi piaci. Mi piaci. Ma si può fare sesso prima del matrimonio? Ah, se lo fai in chiesa sei cristiano. Cioè, questo mi avrebbe risposto questo, considerando come stavano andando le cose. E quindi oscillavo tra queste due cose e mi sono posto altre domande. Sono disposto a dire a qualcuno che la masturbazione è intrinsecamente sbagliata? Oppure che cosa succede se qualcuno mi dice che durante l'atto la sua mente rimane pura? E quella lì è veramente purezza? Voi dite, le risposte non le so. No, ora ve le do. È o non è peccato? La masturbazione è peccato? La masturbazione non è il peccato peggiore che puoi commettere. meno male, aspetta. Sì, la masturbazione è peccato. In questo non sto dicendo che, non sto scusando quelli che si masturbano, no, non sto dicendo questo, però la verità è questa, affrontiamo così poco questi argomenti che nel momento in cui lo facciamo si demoliscono dei muri nella nostra mente e quando cadono questi muri andiamo nel panico. Perché non sappiamo gestirli. Oh mamma, e ora la masturbazione è peccato? E ora che cosa succede? E ora che cosa devo fare? E questo ci porta a non parlarne con nessuno. Silenzio. E tu stai zitto e non ne parli con nessuno. Ma dove c'è scritto nella Bibbia che la masturbazione è peccato? Bravo, bravo, la leggi, eh? Allora, la Bibbia chiama la masturbazione impurità, ok? Dico me? Impurità. Dove è scritto? Galati 5,19, Efesini 5,19, Efesini 5,3, Colossesi 3,5, Primo Tessalonicesi 4,7, Giacomo 1,21. Ce ne sono tanti, non stiamo qui a leggere. La Bibbia è molto chiara, la chiama impurità. Una volta un pastore ha detto questo. Il 99% degli uomini lotta con la masturbazione. L'1% è bugiardo. Quindi siamo tutti sulla stessa barca. E c'è un verso che amo che dice: senza di me non potete fare nulla. Senza Gesù, senza la forza che Gesù ci dà, non possiamo vincere e non possiamo fare assolutamente nulla. Se il porno è la droga, probabilmente è il modo più semplice per eccitarsi quando si è soli. È per questo che è facile diventare dipendenti dal porno. Oggi il porno è chiamata la nuova droga. È una droga, tu diventi dipendente. E se il porno è la droga che usiamo per sopprimere il dolore, allora la masturbazione è il bongo o la siringa? Vedo che chi fa così ha fumato un bongo, io l'ho fumato. Non mi sento solo, ok? C'è tua mamma? Okay. Perché? Perché hai bisogno di qualcosa per iniettarti dentro la droga. Allora ti ecciti con il porno e usi la masturbazione in questo modo qui. Ma il problema non è l'atto in sé, è che c'è qualcosa di più profondo che abbiamo bisogno di risolvere. Il problema è perché usiamo queste cose. E il perché usiamo queste cose? E noi ragazzi ci sentiamo in colpa. No, ho sbagliato ancora una volta, non riesco a uscirne. Ma non è il no, oggi non lo faccio, domani non lo faccio, domani non. Guarda. Non so che suono, se suono usare. Ok, basta, se no si degenera. Il problema è risolvere quello che c'è dentro di noi. Grazia e legalismo, grazia e legalismo, grazia è carina, legalismo no. Il legalismo dice che non possiamo fare le cose, ma non ci dice perché non dovremmo. Non si fa! Infatti, quando quel responsabile al campeggio mi ha detto puoi farlo senza pensarci, oh, era un legalista, io ho ubbidito proprio senza problemi, non c'era grazia in quello che lui mi ha detto, okay? E quindi ho ubbidito a quello che lui mi diceva. La grazia, invece, che cosa fa? Si pone delle domande. La grazia di Dio viene e ti dice: ehi, ma non hai le tasche? Come mai fai questo? C'è un problema dentro di te, forse sei arrabbiato con tutto quello che sta succedendo a casa, forse sei arrabbiato perché sei rifiutato, forse sei arrabbiato perché non riesci ad avere amici, forse sei arrabbiato perché vorresti fare qualcosa per cambiare le cose ma ti sfugge tutto di mano, o quasi tutto. Cos'è che scusate. Cos'è? Cos'è che succede? Cos'è che succede? Torniamo. Lo sapevo. Se c'era mia moglie qua era partito lo sguardo. Scusami, amore. Ok. Oh, mamma mia, è tardissimo. Ok, andiamo avanti. Ho avuto una visione in questi giorni, ieri abbiamo iniziato, sembra una settimana, ho avuto una visione già da ieri sera di una ragnatela sopra molti di noi. Nessuno vede la ragnatela se non quando entra la luce. E tu non ti accorgi di nulla se non quando viene illuminata dal sole. È un po' quando avete visto che c'è il sole dal balcone e vedi un sacco di polvere su. È la luce di Dio, è la Bibbia, è lo Spirito Santo che illumina la tua vita. E dici, mamma mia, ci sono queste cose, che ci sono ragnatele nella mia vita che devo togliere. E fino a quando noi non siamo consapevoli di questo e non iniziamo a pulire casa nostra, rimangono lì queste ragnatele. Pornografia e masturbazione sono come dei mostri dentro di noi che se non li affrontiamo, significa che noi li nutriamo fino a quando crescono, sono più grandi della gabbia e fanno danni. Aborto, suicidio, malattie, famiglie separate, depressione. Questo perché il diavolo sta prendendo una cosa meravigliosa che ha creato Dio e la sta usando in una maniera veramente schifosa. Consigli, e poi pregheremo insieme. Consigli e strategie. Sicuramente molti di noi prenderanno delle scelte radicali, ok, in questa sera. Ma non ti servirà soltanto una strategia, ma ti servirà l'aiuto dello Spirito Santo. Quello che ti sto dicendo deve andare di pari passo con lo Spirito Santo. Sai perché? Perché io ho usato tutti questi consigli senza lo Spirito Santo e ti assicuro non servono a nulla. Probabilmente ti aiuteranno una settimana, due settimane, poi vai in crisi d'astinenza. E ti chiudi da qualche parte a farti. Ok, io usavo i bongo, non usavo le siringhe. Primo, preparati al malessere e al disagio. Wow, che consiglio, sì, è fantastico, guarda. Preparati al malessere, dobbiamo essere onesti, io voglio essere onesto con voi, ok? Se voi avete intenzione di vivere e di lasciare la pornografia, non importa che tipo di utilizzo ne fai, ok? Un grammo, due grammi, due cannoni al giorno, un cannone, non importa, ok? Non importa la quantità, è pur sempre droga, ti devi preparare ad avere una sensazione di fastidio, di repulsione, di malessere, che tu stai cercando di lasciare qualcosa che ha convissuto con te per un sacco di tempo. La droga è qualcosa che ti lascia assuefatto, tu neanche ti accorgi che sta distruggendo la tua vita. E lì, in quel momento, tu avrai questa sensazione, irritabilità, ti arrabbierai, probabilmente ci sarà picchi di depressione, su e giù emozionali. Lì devi resistere, devi dire: Dio, dammi la forza. Dio, dammi la forza, io non voglio cedere. Poi, secondo, c'è scritto in Galati, sempre il primo: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Hanno crocifisso la carne. La crocifissione non è qualcosa che è qualcosa di doloroso, quindi ti provocherà dolore. Secondo, cerca di attuare, pratica l'autoperdono. Siamo bravissimi a perdonare gli altri. Siamo bravissimi anche a perdonare Dio. Guarda tu come siamo. Ti perdono. Mo ci vuole la checcozzola. Però abbiamo difficoltà a perdonare noi stessi. Perdonati. Perdonati, Gesù ti ha perdonato. Mirko diceva: lui ti amerà sempre e comunque, non puoi fare nulla perché lui ti ami di più e non puoi fare nulla perché lui ti ami di meno, giusto? non puoi fare nulla. Non è che lui ti ama di meno perché stai facendo uso di queste droghe. No, lui ti amerà comunque. Perdonati. Terzo, non fidarti della tua forza di volontà. Non fidarti, tutti quanti, molti mi hanno detto devi avere forza di volontà, devi avere forza di volontà. Sicuramente ti serve forza di volontà, ma solo la forza di volontà ti farà fallire. Devi fidarti degli strumenti e delle persone, ripeti con me, persone che Dio ha messo a fianco alla tua vita. Quarto, trova almeno una persona con cui parlare, di cui ti puoi fidare per qualsiasi cosa. Esempio personale, mia moglie ha tutti gli accessi, Facebook, Twitter, Instagram. Io settimanalmente gli dico questo è il mio WhatsApp, controlla tutte le mie conversazioni che ho fatto con le ragazze. Qualsiasi cosa lei ha accesso e non può, deve controllare. Non può. Alcuni mariti, oh ti sei permesso, no, lei deve controllare tutta la mia cronologia, qualsiasi cosa. Nessuno è migliore degli altri, nessuno, devi proteggerti. Io ho fatto un accordo col mio pastore, ho detto pastore tu hai diritto di chiedermi come va la mia situazione e condizione sessuale, anche personale. Nel momento in cui io avrò difficoltà, io ti risponderò luce verde, luce gialla, luce rossa. Luce verde è tutto a posto. Luce gialla è che sono tentato, ok? Sono tentato, è un periodo in cui c'è pressione nella mia vita. Luce rossa, tamponato. Luce rossa vuol dire che è successo qualcosa, vuol dire che il diavolo mi ha fregato e io mi sono lasciato fregare. Perché non è sempre colpa del povero diavolo. Questo ti aiuterà. Ti do questo consiglio perché magari è difficile scrivere mi sono fatto un bongo, perché poi il tuo pastore non capirà se era un bongo vero o era e tu gli dirai tutte e due. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni, confessate i vostri peccati gli uni agli altri. E poi dice, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Fai prigionieri i pensieri. Che cosa significa fare prigionieri i pensieri? Molti di noi lasciano i pensieri latitanti, non li confessano. Significa peccare? No. Totorina ha ammazzato qualcuno quando mandava i pizzini? No, era lì comodo a casa, era un latitante, ma se tu lasci i pensieri latitanti, all'improvviso, boom, ti fanno scoppiare le macchine. Che cosa serve per prendere un latitante? O per prendere un prigioniero? O per catturare qualcuno? La denuncia. Ripeti con me, denuncia, denunciati. Devi denunciare i tuoi pensieri. Non è facile. Io lo faccio, non è facile, non è per niente facile. 5, vado velocissimo, tieni delle statistiche, prendi nota di quando ti succede in questa situazione, in questo contesto, in quest'altro contesto, e cerca di capire come mai succede. Se forse nel momento in cui sei stressato ti succede, fai esercizio fisico. Probabilmente sei insicuro, lasciati incoraggiare. Sei annoiato, guardati un film, guardati Super Quark, fai qualcosa, anche se sei annoiato. Fai un patto con i tuoi occhi. Sono la porta del tuo corpo. Fai un patto con i tuoi occhi. A Milano, nella stagione della moda, io devo camminare con il cane dei ciechi. Perché non puoi guardare da nessuna parte. Sono ovunque. No, ce l'hanno tutti con me. Il diavolo ce l'ha con me. No, c'è la stagione della moda e sono tutte lì. Non è che sei così importante che il diavolo. Non pregare soltanto, agisci. Un ragazzo mi ha detto, pastore, io ho questo problema, ha iniziato a regalare il suo iPad, ha iniziato a regalare il suo iPhone, ha dato il suo computer, perché non riusciva e ha agito. No, sto pregando da un sacco. E questo è il problema, che stai pregando soltanto da un sacco. Ma non devi soltanto pregare. E Dio non opera in noi i cambiamenti che siamo noi a dover fare. Voglio concludere con voi, io ho concluso. Ho cambiato una parte, in realtà ho cambiato tutta la mia conclusione, perché vorrei chiedervi se potete mandare il video, quello del vasaio, senza audio, perché essere purificati e vivere una vita di purezza significa rimanere sulla ruota. Purezza significa rimanere sulla ruota. E mentre ci sarà il video, io voglio dirvi alcune cose. Mentre guardate il video, questo qua è un processo di trasformazione. E sapete cosa faremo dopo? Pregheremo. Perché quell'argilla sei tu, nelle mani di Dio. E Lui farà in questo modo. Prima di arrivare lì, ci sono due processi, setacciatura e modellatura. La setacciatura che cosa fa? Toglie via tutte le scorie. Tutte le scorie dalla nostra vita, pietre, erbacce, bolle d'aria, e rende l'argilla soffice e malleabile. Forse non cambi perché sei troppo duro. E poi c'è la modellatura. E che cosa succede? Il vasaio prende l'argilla e la mette sulla ruota, e la ruota gira, gira e rigira. E qui è dove impariamo e sviluppiamo la capacità di resistere. E lì impariamo a stare dove Lui ci ha messo. Tu come sei? Sei uno, oh no, non riesco a stare qui, non riesco a stare lì. Lui ti prenderà e ti metterà sulla ruota. Ed è lì che inizierà il tuo processo di trasformazione. E dopo la modellatura, che cosa farà il vasaio? Inizia a versare dell'acqua sull'argilla. E mentre lavora, questa massa si alza. Guarda, si alza e inizia a prendere forma la nostra vita. E guarda, oh, io sono puro nonostante tutte queste cose, ora posso entrare nella leadership del pastore Sara. Ecco, questo è il momento per entrare nella leadership. E basta un piccolo sassolino e le pareti del vaso si tagliano e cadono giù. E tutta la tua vita, quello che hai costruito fino a questo momento, si sfracela. Vieni rimesso sul vaso e Dio inizia a lavorarti. E vorrei chiedere nel frattempo alle ragazze se possono prepararti. Mi piacerebbe se possono ripetere la loro performance. Scusami, che non ti vedo. Allora. E avvertiamo un movimento. Il vaso è pronto. Il vaso è pronto. Il vaso è tutto pronto. Lo stacca dalla ruota. E tu inizi a dire, che bello, ora inizierò ad essere mandato per il mondo. Sì, viaggerò con i 6-8, viaggerò perché sono pronto, è il mio vaso. Allora invece Dio che cosa fa? Prende questo vaso e lo mette su uno scaffale, anziché portarlo fuori. E tu rimani lì, sullo scaffale, per molto tempo. E inizi... E probabilmente qualcuno qui sta pensando questo e inizia a dubitare della tua chiamata, chiedendo a Dio perché Lui non si sta usando di te in questo momento. E Lui ti sta dicendo, ma tu in questo momento devi asciugarti e devi riposare un pochettino. E poi avvertiamo un altro movimento. Inizia, ci prendono la nostra vita e Dio inizia a metterla in un posto dove fa molto caldo. E tu dici, sì, che bello, mi sta mandando in Nord Africa, in Sud Africa, fa caldo. No, è il forno. E lo Spirito Santo ti mette nel forno. E nel fuoco, nel forno, tutte le crepe che sono presenti nella tua vita iniziano a uscire fuori. E molti dicono, che bello, è lì, nel momento in cui Dio mi metterà nel forno, vuol dire che Lui inizierà ad usare la mia vita. No, aspetta. Nel momento in cui Dio ti metterà nel forno, è sotto l'intenso calore che Dio prenderà la decisione se usarti o no. Non ti userà per forza quando uscirai dal forno, perché il calore esalterà tutte le crepe che ci sono sulla tua vita. E io voglio pregare con te stasera E vorrei che guardassimo insieme la performance delle ragazze e ti prego, pensa alla tua vita nel frattempo.